speranza tu infondi a chi credi nell'amore. Fontana dei sogni che sussurri ad ogni cuore, sei in amor vuoi fortuna, getta un soldo a speranza ancora.